известные проблемы в мировых финансах. I'm beginning a conversation with you, with America. Jefferson 2, l'arte della svolta, di Stefano Pistolini. Aló, aló. Presidente Zelaya, lo escuchamos en Telesur, lo escucha todo su pueblo. Mire, mire, aquí realmente ellos están impidiendo el aterrizaje, no autorizan, nos están amenazando con matar los aviones de la Fuerza Aérea y pusieron obstáculos en la pista para que no pudiéramos hacer el aterrizaje en la pista. 5 vehículos están metidos adentro de la pista. O 2 camionetas. Objetivos militares en la pista. Y han entorpecido el aterrizaje en la pista, además de las amenazas del operador de Tontontín de Aeronáutica, diciendo que vamos a ser interceptados directamente por la Fuerza Aérea. Están arriesgando su vida, señor presidente. ¿De aquí en más qué medida, qué decisión van a tomar? È piuttosto impressionante questa registrazione del colloquio che si è tenuto tra una giornalista di CNN, edizione latinoamericana, e il presidente estromesso dalla propria carica, Manuel Zelaya, il presidente dell'Honduras, che nel momento in cui parla è in cabina di pilotaggio dell'aereo che sta invano cercando di atterrare all'aeroporto di Tegucigalpa, dove nel frattempo il nuovo potere che ha preso il suo posto con un golpe che si è tenuto 8 giorni fa, nel frattempo ha disposto una serie di mezzi militari, di carri armati, di camionette che rendevano impossibile l'atterraggio tramite il quale il presidente cacciato tentava un primo rientro, il presidente deposto tentava un primo rientro in patria per aprire una trattativa, un confronto con chi gli si oppone, con chi lo ha cacciato, e tentare un rientro al vertice del paese centroamericano. L'aereo su quale viaggiava Zelaya, partito da Washington, non è riuscito ad atterrare e nel frattempo all'esterno del piccolo aeroporto si tenevano dei disordini crescenti. I militari hanno aperto il fuoco contro sostenitori di Zelaya che cercavano di incoraggiarne l'arrivo, ne sostenevano il ritorno nella capitale dell'Honduras, avevano cercato anche di forzare i posti di blocco che erano stati montati tutto attorno allo scalo. Pare che 2 morti e 2 feriti sia il primo bilancio ufficioso di questi scontri. A quel punto Zelaya, dopo una tappa in Nicaragua, è andato nel Salvador, ha chiesto pubblicamente all'esercito, attraverso le televisioni che sono condivise in Centro America, di non abbandonarsi alla repressione. Ha definito i morti nel corso degli incidenti causati da un atto criminale che non deve rimanere impunito. Poi ha incontrato il segretario generale dell'Organizzazione degli Stati Americani, la OSA, José Miguel Insulza, e numerosi capi capi di Stato dell'America Latina, l'argentina Kirchner, l'ecuadoriano Correa, il paraguayano Lugo e naturalmente il padrone di casa, il suo ospite momentaneo, ovvero il salvadoregno Mauricio Funes. Continueremo a cercare ogni mezzo diplomatico possibile per restaurare il presidente Zelaya, ha dichiarato Insulza, il capo, il segretario della OSA, dell'Organizzazione degli Stati Sudamericani. La responsabilità di prendere misure immediate contro questo regime golpista è delle grandi potenze e in particolare degli Stati Uniti, quindi si rinnova il richiamo agli Stati Uniti affinché rompano gli indugi e intervengano con decisione in favore di Zelaya, del suo tentativo di rientrare, e contro l'attuale momentaneo governo guidato da Roberto Micheletti, che ha minacciato a più riprese il presidente deposto di carcere immediato nel caso rimettesse piede sul territorio dell'Honduras. Atterrare in queste condizioni avrebbe provocato un incidente all'aereo. Cercheremo un altro meccanismo per entrare nel paese, ha detto Zelaya. Dobbiamo cercare come rientrare. Ora non si può, forse domani, dopodomani. In sostanza, il rinvio del rientro di Zelaya è solo a breve. Di certo, la temperatura sta salendo precipitevolissimamente. Nel piccolo paese del Centro America i disordini si susseguono, le televisioni americane del Nord America si sono ormai sintonizzate sui fatti che avvengono in uno di questi stati che vengono chiamati di solito il giardinetto di casa, ed è quindi probabile che l'innalzamento del livello dello scontro provocherà in tempi brevi una presa di posizione più decisa da parte degli Stati Uniti d'America. In questo momento però Barack Obama, come sapete, è in Russia, dove sta incontrando i massimi vertici della Russia al Cremlino. Ne parleremo ampiamente nella seconda parte del programma, ma sono tantissime le notizie che oggi si succedono in questa settimana che, tra l'altro, come sapete, contiene al suo interno anche il G8 abruzzese e tutto ciò che a margine del G8 abruzzese andrà in scena, a cominciare già dalla visita di Hu Jintao, che oggi sta conoscendo il suo giorno più importante, il suo giorno chiave, soprattutto per il confronto con i massimi vertici, le massime autorità italiane. In tutto ciò arriva dagli Stati Uniti anche la notizia di un lutto: è morto Robert McNamara, scusatemi, 93 anni, l'ex segretario della difesa degli Stati Uniti d'America nel periodo chiave 61-68, ovvero sotto Kennedy, sotto Johnson, considerato l'architetto della guerra in Vietnam, la famosa guerra di McNamara, tale era il nome che è stato dato a quel terribile, sanguinoso conflitto. Autore, tra l'altro, compartecipe, più che altro protagonista, diciamo così, di un celebre documentario del 2003, del quale a più riprese abbiamo parlato e abbiamo citato, quel Fog of War, la nebbia della guerra, nel corso del quale McNamara spiega, motiva, racconta e lascia anche dare una più che discreta occhiata dietro le quinte dell'America, del potere americano degli anni 60, delle sue modificazioni e delle sue importanti, in certi casi tragiche, decisioni. Per un personaggio ormai da tempo naturalmente a riposo come McNamara, che se ne va, che abbandona la scena, ce n'è un altro che abbandona la scena invece in modo assolutamente repentino, sorprendente, inatteso, al punto da destare, da provocare reazioni del tutto contrapposte, anche un certo spiazzamento nella opinione pubblica americana e soprattutto nei media. Infatti ha annunciato le proprie dimissioni Sarah Palin. I appreciate you all being here, and I just want to say hi to Alaska. I appreciate speaking directly to the people that I serve as governor, and I thank you all for coming here today on the shores. Sta ringraziando dal giardinetto di casa, come ascoltate, con quel sottofondo di bambini che piangono che sembrano esserci sempre quando Sarah Palin parla. To stand by my side as always. It's the eve of our celebration of independence as a nation. It's a time. Forse mai come in questo caso potrebbero essere più indicativi, no? I miagolì dei cuccioletti al suo fianco del lungo prolisso discorso con cui Sarah Palin ha detto che intende dimettersi dal governatorato dello stato dell'Alaska per motivi vari, che si riserva poi man mano di spiegare, di affrontare, di elencare, e attorno ai quali naturalmente sono partite ridde di ipotesi, di informazioni, di indiscrezioni, e si va da un lato all'altro dello scacchiere, da chi inizialmente aveva motivato la cosa con l'intenzione di scendere in campo per la corsa per la nomination alla nomination repubblicana per le presidenziali del 2012, ma poi sono intervenuti i ben informati, quelli che la sanno lunga, insomma quelli del calibro di Karl Rove, che hanno detto: ma state letteralmente scherzando, non è certo in questo modo che si arriva alla possibilità di una candidatura, di una nomination. Così ci si guadagna soltanto l'etichetta di gente che scappa, di gente che abbandona, di gente che non rispetta i patti, i contratti fatti con i propri elettori. Doveva finire il proprio termine, il proprio mandato, avrebbe poi avuto ampio agio di presentarsi per le presidenziali. Questo invece è un abbandono in piena regola, e le parole d'ordine a questo punto sono piuttosto pesanti: una sorpresa assoluta, una scelta rischiosissima, la messa in scena di una fuga. E queste sono parole che non arrivano dal campo democratico, bensì da quello repubblicano, dove con il passare delle ore è cresciuta davvero la perplessità, la preoccupazione e anche la condanna nei confronti del ritiro di Sarah Palin, un ritiro che la stessa Palin, che ripeto si riserva presto di spiegare, di motivare, però oggi come oggi annuncia come deciso, senza possibilità di ripensamenti. Non vuole fare la figura di quella che va in una direzione e poi cambia precipitosamente idea. Insomma, Sarah Palin vorrebbe lasciar perdere la politica, dedicarsi alla famiglia, quella famiglia che tanto ruolo ha giocato nella sua breve ascesa politica e poi forse anche nella sua discesa politica, ma quella famiglia che più spesso che altro è sembrata un ingombro, no? Una fonte di problemi, di imbarazzi, di scandali. Di fatto Sarah Palin potrebbe avere in questo momento dei seri problemi economici, quanto anche ha adombrato il vice governatore che ora prenderà il suo posto alla guida dello Stato dell'Alaska, si chiama Sean Parnell. Ha detto che c'è veramente un imbarazzo economico nella famiglia di Sarah Palin. Con il marito dovrebbero fronteggiare e pagare spese legali pesantissime per difendersi poi da tutta una serie di accuse che a più riprese, anzi a raffica letteralmente, sono state formulate nei suoi confronti, e di conseguenza la Palin ha voluto mettere un punto fermo, fermare, no, questa pioggia di ignominia, di accuse, di questioni che hanno costretto anche l'FBI, anche se l'FBI ha emesso un comunicato in cui per il momento nega di essere sulle tracce di Sarah Palin. Ma di fatto, insomma, c'è tanta carne al fuoco attorno alla precipitosa arresa, ascesa di Sarah. Il suo annuncio è stato molto imbarazzato, balbettante, anche questo non ha avuto una buona stampa. Ne sapremo di più prossimamente, sicuramente. Le due notizie a braccetto: la dipartita dell'America del XX secolo con la morte di McNamara e l'ennesima sterzata dell'America conservatrice del XXI secolo con le dimissioni di Sarah Palin, danno ancora più interesse alla grande mutevolezza, no, di questa America dell'estate del 2009, fra terrificanti situazioni economiche e un presidente in giro per il mondo a cercare di raddrizzare la baracca. Lady, I would love thee, I would fain put thee above me, I would gather shells for weaving magic spells to bind thee to me, blindly woo thee. Changing seasons, make the sun shine, if you'd be mine. E vi abbiamo detto, ci sono veramente una ridda di notizie che si inseguono in questa apertura di settimana di Jefferson, danno, no, il famoso sguardo a 360 gradi su che cosa si muove nel mondo. Una notizia carica di drammaticità, di tragedia, di morte, ma anche di oscuri svolgimenti, di contorni assai poco chiari, è quella che arriva dalla regione cinese dello Xinjiang, dove ci sarebbe un numero imprecisato di morti appartenenti in gran parte alla minoranza degli uiguri, sulla base di una protesta assai violenta andata in scena in una città di cui probabilmente quasi nessuno di voi ha mai sentito parlare, che si chiama Urumqi. Ma per capire un po' meglio cosa è successo, ci è sembrato opportuno avvicinarci, no, ai luoghi, e parlare con chi è un po' più a contatto con queste notizie. Nella fattispecie Luca Vinci Guerra, corrispondente del Sole 24 Ore da Cina, frequente ospite qui a Jefferson, che abbiamo in diretta telefonica. Buonasera Luca. Sì, buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Allora, puoi dirci un po' di più? Qui le agenzie che arrivano sono veramente frantumate, notizie, insomma, tra l'altro molto contraddittorie anche nei numeri. Si parla di un numero variabile di morti che varia da 50 a 140. Quindi che cosa sai tu? Che cosa ci puoi raccontare? Ma no, direi che il numero dei morti non è abbastanza chiaro. Dovrebbero essere 140, almeno finora, quelli accertati. Perché, fatto del tutto insolito, questa volta, a differenza di altre proteste di piazza che qua in Cina, insomma, vanno in scena abbastanza frequentemente, anche se non in queste proporzioni, questa volta sono state le autorità cinesi stesse a giocare d'anticipo e a convocare una conferenza stampa a Urumqi, ovviamente con i giornali locali, per spiegare cos'era successo. E sono loro che hanno fornito queste cifre, hanno circa 800 feriti, un migliaio di feriti e 140 morti. Una guerra praticamente. Sì, aggiungendo però, ecco, perché detta così, cioè, potrebbe sembrare che sono stati tutti morti provocati dalla polizia. Mm-hmm. Ecco, secondo quanto dichiarato dalle forze dell'ordine, invece, la maggior parte delle vittime sarebbe state cinesi, abitanti a Urumqi, che sarebbero stati accoltellati e comunque uccisi dai protestanti uiguri. Mm. Gli uiguri, invece, le associazioni uigure in esilio, devono stare in esilio, bene precisarlo con gli ascoltatori, perché Pechino li accusa di secessionismo e quindi sono stati costretti alla fuga. Uh-huh. Sostengono invece che si sarebbe trattato di una manifestazione pacifica, che la polizia sarebbe scesa in piazza sparando all'impazzata contro i manifestanti e questo avrebbe causato tutti questi morti. Ecco, quindi purtroppo credo che sarà impossibile fare luce piena sull'esatta dinamica del Luca. Però è stata una carneficina di civili praticamente senza precedenti. Certo. Ecco, due domande ti voglio fare, perché il tempo non è tantissimo. Prima domanda, se ci puoi rapidamente riassumere il senso della rivendicazione di questa minoranza, e seconda domanda all'atere, se c'è in prospettiva una prosecuzione di questi disordini. Allora, rispondo subito alla seconda domanda. A Urumqi è tornata completamente la calma, la polizia ha ripreso il controllo della situazione e quindi tenderei a escludere una prosecuzione di questi disordini, certo, nei prossimi giorni, soprattutto a Urumqi. Uh-huh. Ecco, ciò detto, e così rispondo alla seconda domanda, uh-huh, lo Xinjiang è una regione enorme, è la regione all'estremo ovest cinese, dove ci sono molte altre città come Kashgar, come Khotan, come Korla, che a differenza di Urumqi, che è la capitale, sono ancora maggioranza uigura. Ecco, in queste città, proprio perché la maggioranza è uigura, non sappiamo che tipo di reazione la gente locale avrà alle notizie che arrivano dalla capitale, da Urumqi, quale sarà l'impatto emotivo, anche se ovviamente non sarà facile alzare la testa, perché nello Xinjiang c'è il più massiccio forte spiegamento dell'esercito cinese in assoluto, visto che questa regione confina con un sacco, per dire, con tutte le repubbliche centroasiatiche. Certo. Quindi ecco, la situazione è in movimento. Ecco, quindi perché gli uiguri ce l'hanno tanto con i cinesi? Beh, sostanzialmente perché gli uiguri sono tutto fuorché cinesi, cioè, basta andare in quelle regioni per capirlo, sono da un punto di vista proprio morfologico, culturale, linguistico, sono delle popolazioni turcomanne. Certo. Quindi Nel 1949, dopo la rivoluzione maoista, l'esercito di liberazione cinese invase lo Xinjiang, o meglio lo riconquistò, perché durante la storia del lungo impero cinese più volte lo Xinjiang è stato controllato direttamente o indirettamente da Pechino. E da allora si è formato un malcontento enorme, un malcontento certo, che ha preso forma spesso in associazioni, formazioni terroristiche, tra cui una particolarmente famigerata e attiva, che è l'Organizzazione per la Liberazione dell'East Turkestan, che è una formazione integralista islamica che vorrebbe appunto proclamare l'indipendenza dalla Cina e formare uno Stato islamico nell'attuale territorio dell'Occidente. Luca, siamo in chiusura di collegamento, ma telegraficamente sei rimasto sorpreso, e per meglio dire, è cambiato qualcosa nella quantità di informazione che i vertici cinesi hanno diffuso riguardo a questi fatti in questa occasione, come tra l'altro ben sai abbiamo gentato in Italia in queste ore? Ma no, come ti dicevo, questa volta stranamente sono stati loro a giocare d'anticipo e a dire che erano morte 140 persone. Probabilmente, cioè, qui reprimono, ma sono anche molto furbi, sanno che ormai basta un telefonino in mano a un contadino per riprendere, si manda su internet, tutto il mondo viene a sapere quello che è successo. Certo. Figuriamoci in una città come Urumqi, che sarà anche sconosciuta ma fa 6 milioni di abitanti, insomma, è un grossissimo centro. Quindi per evitare che la notizia circolasse incontrollata in tutto il mondo nel giro di poche ore, hanno preferito prendere loro in mano la situazione e fare la conferenza stampa. Va bene, diciamo che non è una questione di spirito diciamo per la libertà di stampa, è una questione legata al loro anche l'opportunismo nell'occasione. Ringrazio Luca Vinciguerra. Peraltro si susseguono notizie di interruzioni di vari servizi di social network, ma ormai ai quattro angoli del paese capitano questi tra virgolette incidenti. Noi cerchiamo di fare il possibile per ragguagliarvi. Come sapete bene, Barack Obama sulla strada dell'Aquila, del vertice del G8, come dire, ha allungato un po', ma per un appuntamento forse anche più importante nella sua agenda, quello dell'incontro con il premier russo Dmitry Medvedev, un incontro ampiamente annunciato, molto atteso e i cui primi risultati sembrerebbero già acquisire un peso non indifferente, se è vero che Medvedev e Obama dovrebbero firmare oggi stesso una vera e propria roadmap verso un trattato per la riduzione degli armamenti strategici, che prenderebbe il posto del celebre, vetusto e per molti versi non troppo glorioso trattato START, che risale al 1991 e ormai prossimo alla scadenza. Questo e molto altro nel paniere dell'incontro, ma per parlarne abbiamo chiamato in causa Angelo Antonio Rosato, più volte nostro ospite in diretta da Pittsburgh in Pennsylvania, è un collaboratore di Limes, è un esperto di Russia, in particolare nei settori dell'energia e del gas, negli Stati Uniti perché è in un periodo di studi, proprio studi dei rapporti tra Mosca e Washington. Tra l'altro sta scrivendo una ricerca per il nostro Ministero della Difesa su Unione Europea e sicurezza energetica. Sull'IMES ha recentemente pubblicato un saggio intitolato Perché Obama ha bisogno di Putin e Medvedev, e allora salutandolo Angelo Antonio, buon pomeriggio. La prima domanda che ti voglio porre è proprio alla luce di questi annunci anche piuttosto promettenti, ripartiamo dal titolo del tuo articolo: perché ha bisogno dei numeri 1 e 2 di Russia il presidente americano, e soprattutto che cosa si intravede in prospettiva a questo incontro, che cosa riparte dopo tante premesse così ottimistiche, che cosa potrebbe ripartire da questo incontro? Vai. Bene, innanzitutto la Russia per gli Stati Uniti non è più il partner strategico che è stato durante gli anni della guerra fredda, del bipolarismo. È un partner importante su alcuni dossier, uno dei tanti di cui gli Stati Uniti devono necessariamente avere a che fare nel nuovo disordine mondiale. Certo. È importante per alcuni dossier, in particolare quello da te citato del disarmo, gli armamenti strategici, ma anche l'Afghanistan è molto importante, ed è proprio di queste ultime ore l'annuncio di un accordo per far transitare weapons, armi e forse anche truppe attraverso lo spazio aereo russo per arrivare, per portare truppe americane in Afghanistan. Questo è molto importante per gli Stati Uniti alla luce del fatto che la via attraverso il Pakistan è assai insicura, e come abbiamo visto anche l'altra volta parlando nella base di Manas in Kirghizistan, certo, è ballerina e non è detto che i kirghisi facciano qualche altro scherzo, cioè chiedano più soldi, tra certo, tutto. Certo. E altro dossier importante è quello dell'Iran, per cui della non proliferazione nucleare, ma qui è molto difficile che gli Stati Uniti possano ottenere molto dai russi, prima di tutto perché non è affatto sicuro che i russi abbiano una tale influenza sull'Iran da poter appunto portare dei risultati che gli Stati Uniti vogliono, e in secondo luogo perché ai russi in un certo senso conviene avere un rapporto come quello che hanno con l'Iran, cioè di collaborazione nello sviluppo del nucleare. In primis perché l'Iran così finanzia l'agenzia di Stato russa del nucleare, cioè Rosatom, che negli ultimi anni ha avuto un po' di problemi finanziari. In secondo luogo perché partecipare al programma nucleare iraniano significa in un certo senso poterlo controllare, poterlo influenzare, per cui non è assolutamente... da parte dei russi non è assolutamente fattibile una pressione troppo forte sull'Iran per la riduzione, per non portare avanti il suo programma nucleare. Invece sul dossier del disarmo strategico è molto probabile, come dicevi tu, che appunto questa roadmap porterà a un nuovo trattato per la riduzione degli armamenti strategici, anche perché i russi non hanno nessuna voglia di continuare a finanziare il loro obsoleto e enorme, vetusto arsenale nucleare. Arsenale, certo. Ma se dovessimo provare a definire, provare a capire, a intuire, dov'è il change, no? Dov'è il cambiamento nella fattispecie, ovvero dove Obama e Medvedev starebbero trovando una nuova sintonia, dov'è il fattore nuovo di questa liaison fra i due capi, americano e russo? Dove potremmo individuarlo? Forse proprio nel fatto che non è più completamente frontale come una volta il loro mettersi uno davanti all'altro, che esistono delle sfumature, forse anche, no, delle riduzioni di impatto sul mondo da parte di entrambi. Ma io qui devo fare un po' l'avvocato del diavolo, nel senso che, come ho scritto anche sull'articolo di Limes da te citato, non credo che ci sia un sostanziale cambiamento di politica estera degli Stati Uniti con la nuova presidenza riguardo alla Russia. Sarà questa amministrazione sarà più caratterizzata dalla continuità rispetto al passato nei rapporti con la Russia che da un cambiamento, dal change. Perché? Perché l'interesse nazionale americano è quello e non cambia con il passare delle amministrazioni. Perché i rapporti personali tra i leader non sono poi così importanti come si crede, ma è più importante l'interesse nazionale. E si vede, la visita di Obama a Mosca non è stata accolta con quello sbandieramento che si è visto in Europa occidentale, anzi l'accoglienza è stata abbastanza freddina, e ho visto l'altro giorno un sondaggio fatto all'Università del Maryland per quanto riguarda le expectation, le attese dei russi nei confronti di Obama, e sono molto freddini, non solo la leadership, ma anche diciamo il pubblico, i cittadini in generale. In realtà anche da parte russa Medvedev e Putin sono molto più vicini e simili di quanto si creda, e c'è stata una specie di accordo, a quanto pare, per la suddivisione, per la divisione del lavoro, nel senso che Putin si occupa dell'economia e Medvedev degli affari esteri. Però quindi la teoria che Putin fosse un po' il convitato di pietra, ovvero quello da lasciare un po' fuori dalla porta perché è troppo diverso da alcune posizioni di Medvedev, non è condiviso dal tuo punto di vista. Secondo te esiste una sintonia e un'intenzione comune nei confronti del confronto con Obama da parte dei due capi russi? Se la strategia degli Stati Uniti, se la tattica degli Stati Uniti, anzi, è quella di dividere i due leader russi, mettendo Medvedev su un piedistallo e dicendo che Putin è un vecchio residuo bellico della guerra fredda, io non credo che funzionerà. Abbiamo capito, va bene, seguiremo. C'è qualcosa, secondo te c'è qualche segreto nel cassetto di questo incontro? Cioè, ci potrebbe essere qualche, per concludere, qualche risvolto dell'ultima ora, un passo in più, o possiamo dichiararci soddisfatti di quello che possono portare a casa ciascuno dei due capi sulla base di questo primo incontro, ritieni? Premettendo che non ho la sfera di cristallo, certo. Direi che la novità annunciata ormai da tempo è quella, come dicevi tu giustamente all'inizio, di una roadmap verso un nuovo trattato per la riduzione degli armamenti strategici, che comunque deve sostituire lo START che è in scadenza a dicembre. Ed è possibile che, dato il comune interesse alla riduzione degli armamenti, anche in vista della strategia USA della non proliferazione in Iran, eccetera, probabilmente ci sarà, potrebbe esserci anche una riduzione maggiore di quello che ci si aspetta, e una maggiore collaborazione anche sull'Afghanistan. Entrambi due hanno un interesse comune, e che è quello del evitare il diffondersi del cancro del fondamentalismo islamico, il che interessa anche alla Russia, vedi Cecenia, vedi Asia Centrale, e la stabilizzazione della regione, e soprattutto il contenimento del narcotraffico. Molto chiaro, ti ringrazio. Angelo Antonio Rosato, collaboratore di Limes, esperto di Russia, in collegamento con noi da Pittsburgh. Gradi. News dai punti sensibili del pianeta. Ma devo dire che sto perdendo un po' di tempo a leggere i commenti che arrivano sulla stampa americana, anche a firma di eminenti editorialisti, sulla questione del ritiro di Sarah Palin, e devo dire che se era una scelta strategica a questo giro l'ha sbagliata, ma proprio di tanto, insomma. Sono severissimi e anche in certi casi ironici gli scritti che le vengono dedicate, e poi anche sul personaggio ormai comincia ad esserci, come dire, una perdita di credibilità, questo fatto che lei abbia rimandato tutti alla sua pagina Facebook, dove spiegherà le motivazioni. Naturalmente gli editorialisti avrebbero voluto invece una bella intervista in prime time su un canale informativo, non è che vedono di buon occhio queste cose. È veramente la carriera, insomma, del nome più nuovo espresso dall'ala conservatrice d'America in questo momento, mi sembra fortemente a rischio. Siamo in questa giornata così effervescente e anche così turbolenta, ma anche piuttosto importante, che preclude una settimana altrettanto interessante. Siamo alle notizie del mondo, e ce ne sono un po' da tutti i lati e anche un po' di tutti i livelli, il famoso alto e basso, no? Anni 90. Beh, diciamo che oggi davvero c'è l'imbarazzo della scelta. Per esempio, c'è questa visita di Hu Jintao in Italia, che oggi è rimasta un po' compressa nel notiziario ricchissimo con l'Honduras. Ma che avrà poi molto spazio in altre trasmissioni. Io mi limito a quella che potrebbe essere la ciccia, volgarmente, di un discorso del genere, perché al di là delle battute, dei convenevoli, delle prospettive, insomma, sono stati firmati 38 accordi tra le industrie italiane e industrie cinesi per un totale di 2 miliardi di dollari, quindi si parla veramente di ingenti investimenti. La parte del leone la fa la Fiat, che ha firmato 8 accordi per un totale di 625 milioni di dollari. Poi per esempio c'è l'Iran, di cui abbiamo parlato tantissimo, direi mai abbastanza, insomma, nelle settimane scorse. Adesso, come capita spesso, insomma, passata la bufera, passata la grande notizia, la vicenda iraniana, pur intricata e pur ancora, se vogliamo, molto tragica, sta passando in secondo ordine. Però per esempio oggi ha parlato Ali Khamenei, la guida suprema iraniana, che ha lanciato l'ennesimo monito contro l'Occidente, insomma ha invitato a non interferire e ha usato parole come sempre durissime, dicendo i dirigenti dei paesi arroganti, forse riferimento principale alla Gran Bretagna, che c'è anche questa disputa aperta con i funzionari dell'ambasciata che sono ancora, certo, nelle mani, certo, degli iraniani. Tra l'altro oggi ne è stato rilasciato un altro e credo che a questo punto sia rimasto soltanto un funzionario ancora detenuto dalle autorità di Teheran, e tra l'altro su questo anche l'Unione Europea sembra pronta ad iniziative, vedremo cosa succederà. Comunque insomma Khamenei ha detto che i dirigenti dei paesi arroganti dovrebbero essere invece consapevoli del fatto che qualunque siano le differenze all'interno del popolo iraniano, la gente serrerà il pugno contro di loro, quindi mi sembra che non ci sia molto invito al dialogo tra Khamenei e il resto dell'Europa. Secondo me è una parola spesa anche invece su un aspetto un po' periferico ma interessante, cioè la qualità stilistica della comunicazione. Abbiamo visto Ugin Tao in diretta televisiva nella sua presentazione alla stampa insieme al nostro primo ministro Silvio Berlusconi, e devo dire mi ha impressionato l'approccio, lo stile, la qualità, anche il livello con cui il presidente cinese si presenta a Occidente e dice le cose che vuole dire, ovvero il linguaggio che utilizza. Ha detto: vogliamo un interscambio equilibrato, ad esempio, diamo il benvenuto ai prodotti italiani adatti al mercato cinese, ma non vogliamo avere un surplus esagerato. E ha detto tante altre cose di questo genere, chiare, dirette, immediate, perfettamente comprensibili a tutti i livelli, dal grande imprenditore al cittadino, che ci sembra il frutto, no, di un lavoro di comunicazione piuttosto sofisticato. Quindi di grande interesse vederlo in azione e in movimento in queste ore in Italia. Stefano, vorrei spendere una parola su Joe Biden, il numero due dell'amministrazione americana, gran lavoratore, tra le mani ha il dossier sull'Iraq, che credo rimanga comunque uno dei più scottanti, anche se poi tutte le forze americane si concentreranno sempre di più sull'Afghanistan. In questi giorni se ne è uscito con una frase non proprio da diplomatico, non molto vellutata, non lo è mai stato in fondo il suo costume, insomma ha lasciato intendere che se Israele, insomma, dovesse decidere di intervenire militarmente per fermare i piani nucleari di Teheran, quindi dell'Iran, gli Stati Uniti non potranno fare nulla, non vorranno fare nulla. Insomma, questa frase ha scatenato un piccolo, interessante e speriamo non drammatico vespaio anche di polemiche e di reazioni. Per esempio si registra oggi la risposta subito delle autorità iraniane, che per bocca del capo della Commissione parlamentare su sicurezza nazionale e politica estera al secolo, Alaeddin Brugerdi, ha detto che l'Iran è pronta a prendere misure reali e decisive qualora Israele decidesse di attaccare i suoi impianti nucleari. Questo tema dell'attacco di Israele aleggia ormai da mesi e chissà poi se diventerà realtà, forse è meglio sperare di no. Cosa meravigliosa è il pancione della signora che su ottavo CNN mese, sta mese, dando le previsioni del tempo, ottavo mese secondo me abbondante, non le hanno dato evidentemente il periodo di gravidanza. Lei lavora e dice che tempo fa in America. No, sta parlando delle piene nel Guangxi, in Cina addirittura. Hanno arrestato un'altra volta Marion Barry, l'ex sindaco di Washington, l'uomo che si inguaia una volta ogni anno, annetto e mezzo, è finito nei guai questa volta per aver infastidito una donna nel parco di Anacostia, alla periferia di Washington, un personaggio un po' ormai alla deriva della politica americana, ma di nuovo ha messo piede in galera. E quindi c'è tanto lavoro, tante storie da raccontare, le seguiremo in questi giorni, come peraltro facciamo da 2 anni e mezzo a Jefferson 2, l'arte da svolta. Io sono Stefano Pistolini, in redazione Emiliano Enrico, in regia Valerio Rocchetti a Roma, Filippo Oreggi a Milano, la mail Jefferson2 @radio24.it, le pagine Facebook si chiamano Redazione Jefferson 2 e Jefferson 2 Radio 24 Express Yourself, replica a mezzanotte, diretta dopo le 4 qui su Radio 24, vi aspettiamo, state bene. just should you see.